Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta qui dagli studi di radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine, ma comunque andiamo subito con la sigla iniziale di questo programma. Bene, questa era la sigla iniziale per questo programma che è Zardins Magnetics. Come sempre siamo in diretta radiofonica anche oggi 2 ottobre 2025, come sempre dalle ore 20 alle ore 21:30, e ricordo anche che il programma funziona grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e Friuli. Bene, ora andiamo all'ascolto di questa band statunitense, esattamente da Portland, nell'Oregon. Loro sono i The Comp e questo è il loro album uscito nel 2022, Come Down to Earth, e ci ascoltiamo uno o due brani. We'll be right back. Sì, un saluto anche da parte mia. Allora, stati, boia, assassini. Così abbiamo scritto nella promo, per chi ha ricevuto insomma la promo della puntata di stasera. Non era solo questo, ma partiamo da questo perché appunto, così dopo questa, in questo momento così anche di rabbia generalizzata, di fronte a cosiddetti piani di pace sì, stipulati tra, da veramente assassini maledetti, capi di Stato infami, non si sa neanche che insulti utilizzare, e di fronte anche alla, alla reazione altrettanto schifosa e allucinante da, da distopia delle peggiori, insomma, delle, in generale degli stati di tutto il mondo, e, non si può dire che questo, stati boia e assassini, ma stasera si, volevamo un po', tra le altre cose, parlare anche di questa... diciamo progetto ecocida e non solo genocida del, dello Stato di Israele nei confronti del popolo palestinese, ma un progetto che appunto si salda con l'imperialismo, si salda con anche con questo colonialismo, non solo il colonialismo di insediamento, ma anche una un ritorno diciamo a modelli di colonialismo dell'inizio del secolo 1900, cioè del, del dopo guerra, prima guerra mondiale, e insomma volevamo parlare un po' di questo basandosi su un articolo di un ricercatore algerino che si chiama Hamza Amoukene, e che ha fatto questo insomma approfondimento diciamo sulla devastazione ecocida di Gaza, ma non solo, anche della Cisgiordania, e così evidenziando questo intento o questo originario intento di distruzione totale dell'ecosistema, e quindi di mettere diciamo la, gli, i nativi palestinesi nella condizione di non poter nemmeno resistere in qualche modo, insomma sopravvivere, resistere in vita in qualche modo, ma insomma l'articolo cioè, affronta diverse cose, diversi aspetti, e poi è interessante anche perché evidenzia anche tutta ancora una volta insomma la, l'impatto che ha questo, questo modello Israele, no? Questo discorso della della trasformazione diciamo della sì, della trasformazione tecnologica dei territori e sullo sfruttamento anche dello sfruttamento tecnologico ad esempio dei territori a proprio favore della modificazione degli ecosistemi in maniera artificiosa per produrre profitto, per produrre un benessere che è sempre comunque chiaramente dedicato alle, al dominio, alle classi dirigenti, al popolo eletto, no? Che è quello che sarebbe quello israeliano. E questo modello di manipolazione del vivente, inteso proprio in senso, nel senso più largo possibile, è un modello che comunque alimenta e si alimenta, nutre il turbocapitalismo e permette insomma di gli permette di spadroneggiare anche di fronte anche sul, sull'orlo del baratro diciamo così come appunto il pianeta, visto che il pianeta si trova sull'orlo del baratro per tanti aspetti, no? E boh, magari mettiamo un pezzo e poi iniziamo a leggere da questo contributo. We'll be right back. Ecocidio, imperialismo e liberazione della Palestina di Hamza Amoukene. A prima vista potrebbe sembrare fuori luogo o addirittura inappropriato scrivere di questioni climatiche ed ecologiche nel contesto del genocidio in corso a Gaza. Tuttavia, ciò che si sta verificando a Gaza non è semplicemente un genocidio, è anche un ecocidio, o quelli che alcuni hanno descritto come un olocidio, l'annientamento deliberato di un intero tessuto sociale ed ecologico. Gaza è disseminata da oltre 40 milioni di tonnellate di detriti e materiali pericolosi, molti dei quali contenenti resti umani. All'inizio del 2024 una parte significativa dei terreni agricoli di Gaza era già stata decimata, con frutteti, serre e colture vitali spazzati via da incessanti bombardamenti. Uliveti e fattorie sono stati ridotti a terra battuta e munizioni e tossine contaminano il suolo e le falde acquifere. Nel frattempo l'acqua del mare è intasata da liquami e rifiuti a causa dell'interruzione dell'elettricità e della distruzione degli impianti di trattamento da parte di Israele. Comprendere la distruzione ecologica in atto nel genocidio israeliano mette in luce le intersezioni critiche che esistono tra la crisi climatica ecologica e la lotta di liberazione palestinese. La lotta per la libertà palestinese è intrinsecamente legata alla sopravvivenza della terra e dell'umanità. Quello che segue, si riferisce appunto agli approfondimenti, traccia il profondo intreccio tra la devastazione ecologica di Israele e la violenza del colonialismo di insediamento in Palestina, che ha raggiunto l'apice nell'attuale genocidio. Mostra come il danno ambientale sia stato, sin dall'inizio, una caratteristica fondamentale del dominio coloniale sionista, usato come arma di controllo e cancellazione. E ci sono alcuni ambiti chiave: le sproporzionate vulnerabilità climatiche imposte ai palestinesi, l'uso da parte di Israele del greenwashing e dell'eco-normalizzazione per mascherare l'occupazione e l'apartheid, l'attuale ecocidio a Gaza e il ruolo di Israele nell'ordine globale del capitalismo fossile. Però l'analisi di Hamza Amoukene non si limita, diciamo, appunto a fare il punto su tutti questi aspetti della devastazione, ma si conclude con un'attenzione particolare alla resistenza dei palestinesi attraverso pratiche radicate nella terra, nella cultura e nella cura, offrendo non solo un rifiuto del dominio, ma una visione di giustizia ambientale ancorata alla liberazione. Sì, questo articolo di cui vi sto leggendo alcuni brani fa parte praticamente di uno dei sette capitoli di un libro collettivo che uscirà nel 2026, e appunto dove si parla un po' di tutti questi argomenti, insomma, ma dove si parla della Palestina come una delle tappe del lungo percorso delle lotte anticoloniali, da Haiti al Vietnam, all'Algeria, al Sudafrica. Ma torniamo alla Palestina. Orientalismo ambientale. Israele ha a lungo descritto la Palestina pre-1948 come un deserto vuoto e arido. Un'immagine che contrasta con l'oasi rigogliosa presumibilmente creata dalla fondazione dello Stato di Israele. Questa narrazione ambientalista razzista descrive gli indigeni palestinesi come selvaggi ecologici che non si prendono cura e persino distruggono la terra su cui hanno vissuto per millenni. La geografa Diana Kay Davis osserva come gli immaginari anglo-europei del XIX secolo spesso descrivessero l'ambiente del mondo arabo come in qualche modo degradato, implicando la necessità di un intervento per migliorarlo, ripristinarlo, normalizzarlo e ripararlo. L'ideologia sionista del riscatto della terra è esemplificata dalla narrazione costruita attorno al progetto di rimboschimento guidato dal Fondo Nazionale Ebraico, un'organizzazione parastatale israeliana. Attraverso il rimboschimento, il Fondo Nazionale Ebraico ha cercato di cancellare i resti fisici e simbolici di 86 villaggi palestinesi distrutti durante la Nakba. Con il pretesto della conservazione, il Fondo Nazionale Ebraico ha trasformato la piantumazione di alberi in un'arma per nascondere la realtà degli sfollamenti di massa coloniali, della pulizia etnica, della distruzione dell'ambiente e dell'espropriazione, creando al contempo un nuovo paesaggio per sostituire quello indigeno. Quindi si tratta di un colonialismo verde. Israele utilizza le designazioni di conservazione, parchi nazionali, foreste e riserve naturali per giustificare l'accaparramento di terre, impedire il ritorno dei rifugiati palestinesi, destoricizzare, giudaizzare ed europeizzare la Palestina, cancellando l'identità palestinese e sopprimendo la resistenza all'oppressione israeliana, e inoltre ripulire la sua immagine di apartheid. Il sequestro delle risorse parte anche, scusate, si estende anche alle acque della Palestina. Poco dopo la creazione di Israele nel 1948, il Fondo Nazionale Ebraico prosciugò il lago Hula e le zone umide circostanti nella Palestina storica settentrionale, sostenendo che ciò fosse necessario per espandere i terreni agricoli. Eppure non solo il progetto non riuscì ad ampliare i terreni agricoli produttivi per i coloni ebrei europei appena arrivati, ma causò anche ingenti danni ambientali, distruggendo specie vegetali e animali vitali, e degradò gravemente la qualità dell'acqua che scorreva nel Mar di Galilea, cioè il lago di Tiberiade, interrompendo il flusso a valle del fiume Giordano. Più o meno nello stesso periodo, Mekorot, la compagnia idrica nazionale israeliana, iniziò a deviare l'acqua del fiume Giordano verso i coloni e le città costiere israeliane e gli insediamenti ebraici del deserto del Nakab, cioè del Negev. Dopo l'occupazione israeliana della Cisgiordania e della striscia di Gaza nel 1967, Israele intensificò il saccheggio delle acque del fiume Giordano. Oggi il Giordano, in particolare il suo tratto inferiore, è stato ridotto a poco più di un ruscello, inquinato, pieno di sporcizia e liquiami. E quindi si dice, questo sia attraverso questi processi di riforestazione, e sia questo, con questo prosciugamento delle risorse idriche, e il dominio, il colonialismo di insediamento appunto mette in atto il suo dominio, interrompendo violentemente le relazioni delle persone con il loro ambiente e minando strategicamente la continuità collettiva delle comunità indigene sul territorio. Quindi il colonialismo di insediamento viene ad essere anche una supremazia ecologica, cioè cancella le qualità delle relazioni che contano per i popoli indigeni, imponendo al loro posto ecologie coloniali. Quindi la violenza coloniale è prima di tutto, e storicamente, una violenza ecologica, cioè un tentativo di sovrascrivere un ecosistema con un altro. Un altro studioso, Eyal Weizmann, osserva che in Palestina la Nakba ha anche una dimensione ambientale meno nota: la completa trasformazione dell'ambiente, del clima, del suolo, la perdita del clima indigeno, della vegetazione, dei cieli. La Nakba è un processo di cambiamento climatico imposto dal colonialismo. Sì, e poi parlando di crisi climatica in Palestina, appunto questi studi prevedono che entro la fine di questo secolo le precipitazioni annuali in Palestina potrebbero diminuire fino al 30% rispetto al periodo 1961-1990. Le temperature potrebbero aumentare tra 2,2 gradi e 5,1. Quindi con conseguenti cambiamenti climatici drastici e una maggiore desertificazione. L'agricoltura, pilastro dell'economia palestinese, sarà gravemente colpita. Stagioni di crescita più brevi e un crescente fabbisogno idrico faranno aumentare i prezzi dei prodotti alimentari, minacciando ulteriormente la sicurezza alimentare. Israele è uno dei paesi meno vulnerabili al clima della regione medio orientale e uno dei più pronti ad affrontare il cambiamento climatico. Questo perché ha accaparrato, saccheggiato, controllato la maggior parte delle risorse della Palestina, dalla terra all'acqua all'energia. Sviluppando sulle spalle dei lavoratori palestinesi e con il supporto attivo delle potenze imperialiste, tecnologie in grado di alleviare alcuni degli impatti del cambiamento climatico. Quindi anche qui in realtà tecnologie che alleviano gli impatti del cambiamento climatico, ma ovviamente non lo affrontano, cioè non lo affrontano per evitarlo, per correre ai ripari prima che la situazione degeneri, no? Perché il modello appunto di sviluppo è questo qua, è quello di alleviare e continuare come dei treni lanciati a massima velocità nella stessa direzione di appunto distruzione totale. E tornando all'acqua, non c'è carenza d'acqua tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo, eppure una cronica crisi idrica colpisce i palestinesi in Cisgiordania e a Gaza a causa della supremazia ebraica imposta dall'occupazione e delle infrastrutture idriche soggette ad apartheid. Dall'occupazione della Cisgiordania nel 1967 Israele ha monopolizzato le fonti idriche, un potere formalizzato negli accordi di Oslo 2 del 1995, che hanno concesso a Israele il controllo su circa l'80% delle risorse idriche della Cisgiordania. Questo include l'esercizio del controllo israeliano sulle fonti idriche, rigide quote di fornitura per i palestinesi, diniego di sviluppo, come ad esempio il diniego allo scavo di pozzi, e la ripetuta distruzione delle infrastrutture idriche palestinesi. La disparità è impressionante. Il consumo giornaliero pro capite di acqua in Israele era di 247 litri pro capite nel 2020, oltre il triplo degli 82,4 litri a disposizione dei palestinesi in Cisgiordania. In Cisgiordania i 600.000 coloni illegali israeliani consumano 6 volte più acqua della popolazione palestinese di 3 milioni di persone. Inoltre gli insediamenti illegali israeliani consumano fino a 700 litri pro capite al giorno, compresi beni di lusso come piscine e prati, mentre alcune comunità palestinesi, scollegate dalla rete idrica, sopravvivono con appena 26 litri a persona, una quantità vicina alla media nelle zone colpite da calamità e ben al di sotto della quantità d'acqua sufficiente per le esigenze personali e domestiche. Nel 2015 solo il 50,9% delle famiglie della Cisgiordania aveva accesso quotidiano all'acqua, mentre nel 2020 Bethlehem ha stimato che solo il 36% dei palestinesi della Cisgiordania aveva un accesso affidabile tutto l'anno, con il 47% che riceveva acqua meno di 10 giorni al mese. A Gaza la situazione è ancora peggiore. Anche prima dell'attuale genocidio, solo il 30% delle famiglie aveva accesso giornaliero all'acqua, una cifra che è diminuita drasticamente. Prima del genocidio, il 90-95% dell'acqua di Gaza non era potabile o non andava bene nemmeno per l'irrigazione. L'acqua contaminata causava oltre il 26% delle malattie segnalate ed era una delle principali cause di mortalità infantile, responsabile di oltre il 12% dei decessi infantili nel territorio. Nel febbraio 2025, mentre la violenza genocida continuava e la carestia peggiorava, si stima che la quantità d'acqua disponibile a Gaza fosse di 5,7 litri a persona al giorno. We'll be right back. Sì, siamo sempre su Zeddings Magnetics e stiamo proponendo così la lettura di alcuni brani di questo articolo, poi prima non l'ho detto, che è stato pubblicato su Invicta Palestina, e che si intitola Ecocidio, imperialismo e liberazione della Palestina, di Hamza Amoukene, un ricercatore algerino. E arriviamo al capitolo che parla di eco-normalizzazione e greenwashing nell'era delle energie rinnovabili. E qua si sostiene appunto che Israele si presenta come un paladino delle tecnologie verdi, della desalinizzazione, dei progetti di energia rinnovabile. E si spaccia per un paese verde e avanzato in un Medio Oriente arido e arretrato. Questa immagine è stata rafforzata dagli accordi di Abramo, che sono stati firmati nel 2020 da Israele con gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain, Marocco e Sudan, e da accordi per l'attuazione congiunta di progetti ambientali riguardanti le energie rinnovabili, l'agroalimentare e l'acqua, tutte cose che riguardano anche qua da noi, no? Sono motivo di sfruttamento e di anche qui da noi. Si tratta di una forma di eco-normalizzazione, l'uso dell'ambientalismo per screditare e normalizzare l'oppressione israeliana e le ingiustizie ambientali che produce nella regione araba e oltre. E allora, la normalizzazione delle relazioni tra Marocco e Israele del dicembre 2020 è avvenuta attraverso un accordo tra le due potenze occupanti. Naturalmente facilitato questo accordo dagli Stati Uniti, che già al tempo erano sotto Trump. Allora, Israele e Stati Uniti hanno riconosciuto la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale, e da quel momento gli investimenti e gli accordi israeliani in Marocco sono aumentati, soprattutto nei settori dell'agroalimentare e delle energie rinnovabili. E qua ci sono mille esempi, insomma, magari andate a leggervi l'articolo, chi ha voglia, insomma, chi è interessato, perché ci sono veramente tantissime notizie anche molto tecniche, ma dove vengono nominati appunto questi accordi con questi stati nominati prima: Marocco, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Egitto, Bahrain e Oman. E su questi progetti di energia tra virgolette rinnovabile, tipo solare, eolico, stoccaggio di energia, attraverso delle imprese ultratecnologiche israeliane. E allora l'autore mette anche in evidenza che questa dipendenza che viene a crearsi da parte di questi stati nei confronti della tecnologia israeliana, con l'aggravarsi delle crisi ecologiche e climatiche di quelle in tutto il mondo, ma in quelle zone in maniera particolare, e questi paesi vengono a dipendere dall'energia, dall'acqua, dalla tecnologia israeliana, e quindi pian piano, diciamo, si sfalda la solidarietà con il popolo palestinese, e la lotta palestinese viene a essere considerata meno importante della garanzia invece dell'accesso appunto alle risorse. E parlando di imperialismo, ci dice l'autore, il Golfo funziona, quindi i paesi che si affacciano sul Golfo, funziona come una forza semiperiferica o addirittura subimperialista. Non solo è significativamente più ricco dei suoi vicini, ma partecipa anche alla cattura e all'assimilazione del plusvalore a livello regionale, riproducendo le dinamiche centro-periferia di estrazione, emarginazione e accumulazione tramite espropriazione. Ma arrivando alla guerra ambientale, all'ecocidio a Gaza, praticamente si viene a capire come le pratiche coloniali israeliane utilizzino gli elementi ambientali come strumento attivo di guerra militare all'interno e nei dintorni della striscia di Gaza. In questa guerra la distruzione delle aree residenziali di Gaza e la distruzione dei suoi spazi agricoli vanno di pari passo, quindi distruzione di terreni, imposizione di restrizioni di coltivazione agli agricoltori palestinesi, limiti alle tipologie di colture all'altezza, quasi totale eliminazione degli uliveti e degli agrumeti. E i bulldozer israeliani sono entrati regolarmente a Gaza per sradicare le colture e distruggere le serre. Abbiamo visto anche appunto in Cisgiordania, si parlava appunto della distruzione della banca del seme di Hebron. dal 2014, anche questo è importante, questo processo ha incluso la guerra chimica. Israele impiega regolarmente aerei per l'irrorazione aerea che spruzzano erbicidi tossici e fitotossici sui terreni agricoli palestinesi a centinaia di metri all'interno di Gaza. Tra il 2014 e il 2018 il Ministero dell'Agricoltura palestinese stima che l'irrorazione aerea di erbicidi abbia danneggiato oltre 13 km quadrati di terreni agricoli a Gaza. Gli effetti di queste sostanze chimiche non si limitano alle colture. Il consumo di piante contaminate da sostanze chimiche da parte del bestiame può danneggiare gli esseri umani attraverso la catena alimentare. Inoltre, queste pratiche, che consistono anche nella distruzione di intere fasce di terra coltivabile, priva gli agricoltori dei loro mezzi di sostentamento, ma anche garantisce all'esercito israeliano nel deserto, appunto, una migliore visibilità per attacchi a distanza letali. Quindi, invece di far fiorire il deserto, i colonizzatori sono impegnati in un processo di desertificazione, trasformando terreni agricoli un tempo fertili e attivi in un'area arida e bruciata, ripulita dalla vegetazione. E ci dice l'autore: è in questa brutale e coloniale riconfigurazione del panorama biopolitico di Gaza e più in generale di quello della Palestina storica che ha avuto luogo l'attacco di Hamas del 7 ottobre. Ciò che vediamo a Gaza è la prova generale del futuro. Il genocidio a Gaza è un avvertimento di ciò che accadrà se non ci organizziamo e non resistiamo. L'impero e le sue classi dominanti sono pronti a sacrificare milioni di persone, neri, ispanici, bianchi della classe operaia, per preservare l'accumulazione e il dominio del capitale. Gaza rivela anche come la guerra e il complesso militare industriale guidino la crisi climatica. La lotta per la liberazione palestinese è inscindibile dalla lotta contro il capitalismo fossile e l'imperialismo statunitense. Il dominio statunitense in Medio Oriente, con la conseguente influenza sul capitalismo globale dei combustibili fossili, si basa su due pilastri: Israele e le monarchie del Golfo. Israele, descritto dall'ex segretario di Stato americano Alexander Haig come la più grande portaerea americana al mondo che non può essere affondata, è l'ancora dell'impero, contribuendo al controllo delle risorse di combustibili fossili, sperimentando la sorveglianza e gli armamenti e integrandosi nella regione attraverso settori come l'agroalimentare, l'energia e la desalinizzazione. Il ruolo di Israele nella regione è iniziato con gli accordi di Camp David 1978, il trattato di pace tra Giordania e Israele 1994 ed è stato seguito dagli accordi di Abramo nel 2020 con gli stati di cui si parlava prima, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Sudan e Marocco. Prima del 7 ottobre, la normalizzazione tra Arabia Saudita e Israele era imminente, sotto il patrocinio degli Stati Uniti. Le azioni della resistenza palestinese hanno sconvolto quei piani. Ecco perché i movimenti per la giustizia climatica, i gruppi antirazzisti e gli organizzatori antiimperialisti devono sostenere la lotta palestinese e difendere il diritto dei palestinesi a resistere con ogni mezzo necessario. E poi, l'autore ci parla, Hamza Amoukene, ci parla di resistenza ed Ecosumud. E conclude con questa... con questa frase tratta dalle parole di Andreas Malm. Cosa può imparare il fronte climatico dalla resistenza palestinese? Può imparare questo: anche quando la catastrofe è consumata, onnipresente e implacabile, continuiamo a resistere. Anche quando è troppo tardi, quando tutto è perduto, quando la terra è stata distrutta, ci solleviamo dalle macerie e combattiamo. Non cediamo, non ci arrendiamo, non ci arrendiamo perché i palestinesi non muoiono. I palestinesi non saranno mai sconfitti. Bene, teniamo un po' in sottofondo questa band milanese che più volte abbiamo passato in questo programma, insomma 25 anni che calcano le scene dell'anarcopunk nazionale e anche extra nazionale. Loro sono i Kalashnikov e ci stiamo ascoltando dei brani estrapolati dal loro album datato 2010, Living in a Psycho Chaos Era. E prima invece in sottofondo durante gli interventi abbiamo ascoltato due band, e dove, anche se è un acronimo che non so cosa significhi, e i Dissidents, comunque due band statunitense uscite con uno split 12 pollici uscito lo scorso mese grazie all'interessamento di un'etichetta inglese. E le due band, così piccolo appunto, hanno dedicato questo album, anche perché una delle band, ovvero i Dissidents, ci suonava il chitarrista che in passato suonò pure nei Behind Enemy Lines, che è la band che noi abbiamo preso un brano per fare la sigla di questa trasmissione. Vabbè, dettaglio irrisorio. E rimaniamo ancora un pochino con i Kalashnikov. Un saluto a tutte e tutti voi anche da parte mia per questa puntata del 2 ottobre di Zardins Magnetics. Un saluto a chi ci ascolta normalmente su Radio Onde Furlane e anche a chi ci ascolta invece su Radiazione e sulla web radio Radio Eustachio. Dunque, abbiamo ascoltato un importante approfondimento sul come queste pratiche, cioè come questo paradigma del tecnologico del stato sionista abbia dei risvolti anche nelle pratiche di assoggettamento, nelle pratiche di annientamento delle culture e dei saperi e delle pratiche cosiddette della popolazione indigena e del popolo, cioè di queste comunità cosiddette, ripeto, sottosviluppate, e in particolare nel imporre il paradigma verde, il greenwashing, ma anche il modello di sviluppo sostenibile, e quindi ad esempio l'affrontare il cambiamento climatico nei suoi effetti più insopportabili per alleviarli e non andare alla ricerca delle cause che hanno scatenato il cambiamento climatico, che non è un cataclisma naturale ma è un processo che è stato avviato appunto dal modello di sviluppo capitalista o neocapitalista o neoliberista, eccetera eccetera. In questo diciamo così, aspetto di imposizione di un progetto di assoggettamento del vivente, no, che ha lo stato sionista, io vorrei raccogliere stasera, in questa seconda parte di Zardins Magnetics, vorrei raccogliere l'aspetto appunto di quello che è una manipolazione, no? della realtà, chiaramente attraverso gli strumenti culturali, mediatici più in maniera più estesa, modello, anche questo è appunto l'aspetto di manipolazione, che è alla fine un non voler vedere le cose, perché comunque queste affermazioni passano, cioè che il modello di sviluppo neocapitalista è quello che permette di sopravvivere su questo pianeta, perché comunque allevia, no, ad esempio gli effetti deleteri del global warming, se questo passa gli è consentito di passare. Volevo dire, quindi il ragionamento che voglio fare io è questo: com'è possibile che passi questo ragionamento e passi questo tipo di tesi, no? Non si vuol vedere quelle che sono le cause reali dei problemi. Allora, ecco, facciamo un salto, quindi vediamo meglio, ecco, prendiamo spunto da un importante studio di cui avevamo parlato varie puntate indietro. Lo studio si chiamava L'industria del complottismo, no? Era stato tradotto in italiano circa un anno fa. L'industria del complottismo. Allora, il complottismo, ecco, non era un fenomeno tra gli altri, un fenomeno ridicolo, un fenomeno da seguire, eccetera. Era appunto in sé un fenomeno che andava analizzato ed era anche una misura, no? Una misura di come appunto ci si allontana dalla ricerca appunto della concatenazione dei fatti e si vada invece alla deriva di alcuni punti di vista allucinati. Quindi è una, alla fine, una forza recuperatrice diventa il complottismo in questa maniera, un ripiego, una fuga della critica, un ripiego nel senso di un tornare indietro della critica, un fare passi indietro, ecco, ritornare coi ragionamenti indietro, cercare questi punti di vista allucinati, seguirli e perdersi appunto chissà dove. Non a caso questo procedimento di andare all'indietro, no, del complottismo viene proprio, gli stati se ne appropriano, per cui accusano di complottismo alla fine ogni tipo di critica e quindi in qualche maniera riescono a governare il dissenso. Il succo, diciamo, il nucleo centrale di questo fenomeno di vedere complotti è appunto una ricerca continua di cause occulte nei fenomeni. Invece di accettare la concatenazione dei fenomeni, cercarne dei nessi, ma comunque, diciamo, senza uscire dal seminato, nel senso, senza inventarsi di sana pianta, oppure senza voler riempire quelli che sono i vuoti per forza con cause occulte, no? Con cause oscure, occulte, comunque equivoche, eccetera. Invece di fare questo, la storia dovrebbe essere, soprattutto appunto, adesso passiamo alla disciplina storica, no? La ricostruzione degli eventi, la storia dovrebbe essere un'interpretazione corretta dei fatti del passato, e non una manipolazione, diciamo, non una manipolazione finalizzata all'uso pubblico in maniera spudorata, no? A questo proposito, adesso io volevo stasera proporvi, a proposito di spudoratezza, appunto, andiamo fra quelli che sono le vette della spudoratezza, ovvero il governo Meloni, ovvero la capo del governo, Giorgia Meloni, che a proposito della strage di Bologna del 2 agosto 1980, la bomba collocata da organizzazioni neofasciste nella stazione di Bologna, appunto, fatta esplodere e rivolta appunto a popolazione indiscriminata, quindi vero, appunto, vera strage, vera e propria. Giorgia Meloni ha, diciamo, dopo essere andata al governo, ha fatto delle allusioni sul fatto che gli 85 morti e gli oltre 200 feriti della strage di Bologna meritano giustizia e è necessario continuare a chiederla, la giustizia insieme alla verità. Cosa voleva dire? Alludeva al fatto che c'era stato il cosiddetto, era esploso già questo siamo nel 2022, prima di andare al governo, ovvero prima di andare al governo, perché nell'agosto era ancora appunto all'opposizione, era successo che era esplosa qualche anno prima la cosiddetta pista palestinese sul appunto le radici su qual era la vera motivazione, i veri chi ha operato veramente appunto questa strage, i palestinesi. Perché magari mettiamo un brano così poi andiamo avanti nel racconto. Eccoci. Allora, questo intervento mio adesso appunto su qui su Zardins Magnetics è un po' così, molto diciamo cerca di legare varie cose. Dicevo appunto che il complottismo è questa tendenza a seguire punti di vista allucinati sui fenomeni, sulle cose accadute, sugli eventi o sulle cose in divenire. È una forza alla fine recuperatrice, appunto, perché non arriva mai a una conclusione, non si accontenta mai di una conclusione, ma va alla ricerca di continue case occulte ai fenomeni, non ha un'impostazione critica. Allora, dicevo di questa uscita della Giorgia Meloni sulla presunte responsabilità dei terroristi palestinesi degli anni 70 nella collocazione dell'ordigno nella stazione di Bologna il 2 agosto 1980, ed è però una sua è stata una questa un'azione tra virgolette retorica, è stata un intervento appunto fatto in varie maniere, dicendo qua e là, appunto, e risale al 2022, non agli anni 80, tantomeno ecco a prima. Ecco, adesso vi spiego, è successo questo. Allora, praticamente si sta parlando di un fatto che è successo alla fine del 1979. Nel 1979, tra l'8 novembre, Una macchina con tre militanti del collettivo autonomo del Policlinico di Roma vengono arrestati nei pressi di Ortona, vicino a Pescara, perché nella loro macchina c'erano delle casse con dentro due lanciamissili. Vengono arrestati e poco dopo viene arrestato anche un militante del Fronte Popolare per la Liberazione Palestina, che si trovava in Italia, un palestinese. La questione praticamente a quei tempi va a finire che scadono i termini di carcerazione, il palestinese viene, non so se espulso, comunque lascia l'Italia. I tre militanti vengono condannati, ma non, insomma, questa è una questione, se volete volete approfondirla andate a vedere, non vengono condannati con i, diciamo, con pene, diciamo, vengono condannati con una pena ridotta, ecco, rispetto ai presupposti. Cosa era successo? Nel frattempo era andata praticamente in funzione era andato in funzione questo Lodo Moro, che è esistito, no? Questo accordo riservato tra lo Stato italiano e l'OLP. Quindi l'OLP era, a quei tempi, raccoglieva tutte le varie componenti della resistenza armata palestinese. Erano accordi riservati a quei tempi, quindi evidentemente non potevano essere di dominio pubblico. Succede che a metà degli anni 10, nel 2014, sotto il governo Renzi mette in piedi una seconda commissione Moro, dopo la prima che aveva funzionato negli anni 80-90, mette in piedi quest'altra commissione Moro sequestro e l'uccisione di Aldo Moro con determinati poteri di indagine, composta di parlamentari. Allora, questa commissione Moro verso il 2016 funziona, la commissione Moro 2, tra il 2014 e il 2017. Alcuni dei membri della commissione Moro 2 iniziano appunto dal 2016 a fare allusioni sui documenti riservati che loro potevano consultare, relativi al fatto appunto che sia la strage di Bologna sia la strage di Ustica, cioè l'abbattimento dell'aereo di linea Bologna-Palermo il 27 giugno 1980, fossero riconducibili a questo fatto, per cui c'erano delle componenti cosiddette terroriste palestinesi in Italia e andavano a colpire obiettivi indiscriminati e soprattutto appunto stragisti. A parte il fatto che appunto esisteva questo Lodo Moro, comunque era anche un sistema per sgravare quelli della parte di quelli che sono adesso al governo, ovvero i neofascisti, delle responsabilità reali per quelle due stragi lì, no? Allora, alla fine il governo Draghi nel 2022 si chiama Comitato Consultivo, che è un apparato che afferisce comunque alla Presidenza del Consiglio e vigila sull'attività di desecretazione e versamento dei fondi archivistici, seguendo alcune direttive, appunto le stesse direttive dell'epoca del governo Prodi, Renzi e anche appunto Draghi nel 2021-22, quando è stato in carica. Decidono appunto di desecretare larga parte dei documenti inerenti appunto a questa questione del ritrovamento dei lanciamissili nel 1979, emerge che appunto cosa era successo. Il colonnello del Sismi Stefano Giovannone aveva trattato con l'OLP per risolvere questa che era per loro una crisi, no, per loro lo Stato, per loro era una crisi, nel senso che non ci si poteva permettere di tenere un guerrigliero palestinese, un fedain, nelle carceri italiane. In tutto il casino che c'era quella volta in Italia, c'è ancora adesso, ma comunque in quella situazione era un problema, perché comunque i palestinesi colpivano anche in Europa, no? Avevano degli obiettivi in Europa, facevano degli attacchi, eccetera, insomma, c'erano varie organizzazioni, no? Quindi su questo l'Italia non voleva appunto spostarsi da quella che era la sua politica dal 1973. Dicembre 73 c'era stata un'altra strage di Fiumicino, appunto, eravamo preso il possesso di un aereo di linea in aeroporto, i palestinesi avevano collocato una bomba e poi avevano dirottato l'aereo, eccetera eccetera, e non erano stati perseguiti comunque, neanche, anche perché avevano lasciato l'Italia immediatamente sotto appunto il dirottamento era finito nei paesi appunto del Golfo Persico. Da quella volta appunto chi governava l'Italia, che erano i democristiani, per questo si chiamava Lodo Moro, questo accordo riservato, avevano stabilito che con l'OLP avevano stabilito appunto di avere come obiettivo la messa in sicurezza del territorio italiano e dei suoi interessi oltre i confini nazionali, evitando che l'Italia fosse travolta dal conflitto israelo-palestinese. In cambio, le autorità italiane avrebbero fornito sostegno internazionale e riconoscimento politico all'attività dell'OLP, e questo era già partito nel 1972, perché il 72 è un anno importante, perché c'era stata anche Monaco, no? Alle Olimpiadi di Monaco era stata una situazione così molto, sì, un attacco, quello là era stato una cosa che aveva destato preoccupazione in tutti i governi, no, europei. Quel Lodo Moro lì ha continuato a funzionare fino alla fine degli anni Ottanta, ecco, fin quando è esistita la lotta armata palestinese organizzata, fino prima degli accordi di Oslo, no? A quel processo che appunto ha portato alla fondazione dell'NP, dell'autorità nazionale palestinese. Ecco, quindi era l'obiettivo dei governanti italiani e dei rappresentanti della resistenza palestinese, era di smilitarizzare lo scontro e politicizzare il conflitto, no? Cioè politicizzare con la diplomazia. Ovviamente l'Italia aveva una specie di equidistanza quella volta con Arafat, che era anche un sentimento diffuso comunque a livello anche di senso comune, ecco, se per quel che può valere anche l'esperienza personale. Allora, e questi documenti allora del relativi al lanciamissili di Ortona sto chiaramente adesso già da un bel po' sto saccheggiando gli articoli giornalistici e comunque studi di quello che è uno dei più validi studiosi di queste questioni in Italia, è Paolo Persichetti. Lui dice praticamente hanno desecretato questi fascicoli relativi a Ortona, Quei documenti dimostrano che la crisi dei lanciamissili palestinesi fu negoziata con grande abilità dal colonnello Giovannone del Sismi e risolta già un mese prima dell'attentato alla stazione, con il rinvio del processo d'appello, venendo incontro alle richieste palestinesi. Praticamente i palestinesi chiedevano che si rimandasse, fosse rinviata il processo, no, in tribunale, in modo che scadessero i termini di custodia cautelare. Il processo fu addirittura rinviato altre due volte, novembre 80 e giugno 81, per poi finalmente tenersi a gennaio 82. Questa fu infatti la strategia individuata dal governo, concordata con i palestinesi, per consentire la scarcerazione nell'agosto 81 di Saleh, che era appunto il Fedayeen, grazie al superamento dei limiti di custodia cautelare. Successivamente le condanne vennero ridotte per tutti e quattro gli imputati, dicevo prima così a memoria, nel corso del processo d'appello, esattamente come richiesto dal Fronte Popolare di Liberazione Palestina. I palestinesi dunque non hanno mai avuto alcuna ragione di rompere gli accordi presi nel 73, cioè il cosiddetto Lodo Moro. Ok, per concludere, praticamente sì, ve l'ho detto in apertura, c'era questo tentativo di avvalorare la tesi, appunto, di togliersi dai piedi la responsabilità dei fascisti, dei neofascisti, sulle stragi, no, del passato, ed era un esempio di come. E il complottismo non è solo una cosa da ridere, le fake news non è solo una cosa da ridere, ma è una cosa che mina alla base, no? il senso della realtà, uno, ma anche il senso, cioè la diffusione, la condivisione del passato, la trasmissione del passato, perché continuamente vengono sfasate, vengono confuse, viene buttato fumo negli occhi delle cose successe, si tolgono appunto responsabilità a determinati attori o determinati epigoni di quei personaggi che hanno agito nel passato, e quindi è una cosa che agisce nel presente. Il complottismo non è semplicemente una questione che riguarda una minoranza di gente che sta lì a occuparsi di cose successe, morte sepolte. Purtroppo, magari fosse così, purtroppo le cose appunto successe vengono piegate negli interessi di chi ha appunto interesse a ognuno, cioè di questi che hanno, nella fattispecie di questi di cui ho parlato stasera, che sono appunto Meloni e soci, per riscrivere il passato, ma anche per manipolare il presente e presentarsi come una forza praticamente sì, nuova, una forza che ha delle carte da giocare in maniera così, non ha nessun, non deve rispondere di niente di quello che è successo e di perché si trova lì, ecco. Yes. Sì, prima di salutarci, di passare, diciamo, la parola di là dal vetro per gli ultimi pezzi, e vabbè, si avvicina la data la famigerata data del 14 ottobre, appunto, data durante la quale non si svolgerà nessuna partita. Cercheremo di fare sì che non si svolga nessuna partita Italia-Israele, ma domani c'è lo sciopero, c'è un altro sciopero, insomma, indetto da Sicobas, USB, e anche la CGIL si è accodata. Alla fine sapete della manifestazione nazionale del 4 ottobre, che è sabato, che vabbè, non stiamo a parlare di quello, ma restando, diciamo, per chi è qui in zona nel Friuli e Trieste, oggi c'è stato a Udine un presidio allo stadio, e appunto un presidio, insomma, di solidarietà con la resistenza palestinese, anche di protesta contro lo Stato di Israele, ma anche contro lo Stato italiano e tutti gli stati complici, insomma, dello Stato sionista, anche per prendere un po' di confidenza, appunto, con quel territorio lì deterritorializzato che sono i dintorni dello stadio, che sapete che il 14 sarà presumibilmente zona rossa, insomma, presidiato dagli schiavi del potere. E domani, appunto, sciopero, c'è anche una chiamata per Trieste, c'è una chiamata per il porto, una chiamata per il mattino 9:30, chi può. E anche a Udine ci saranno delle presenze, una presenza davanti alla prefettura a partire dalle ore 11 e in altri momenti, insomma, di così, che poi chiaramente la situazione è in super evoluzione, quindi ci sono continuamente chiamate, anche sì, e quindi, insomma, è tutto in divenire. E per oggi, diciamo che siamo quasi agli sgoccioli, e niente, alla prossima, e sì, e buone mobilitazioni a tutti. Bene, appunto, come è stato detto, siamo agli sgoccioli, e quindi brevemente, vabbè, ricordo che anche oggi 2 ottobre 2025, qui in diretta da Radio Onde Furlane col programma Zardins Magnetics dalle 20 alle 25, grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste, e anche come di consueto vi ricordo i nostri contatti. Se volete scriverci tramite posta elettronica, potete farlo scrivendo alla mail liberetutti@autistiche.org, ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure scrivendo alla casella postale 129, Associazione Senza Sbarre, Trieste Centro 34121. Bene, ricordo anche che questo programma, ma anche sì, l'odierno programma, ma anche quello delle volte scorse, potete riascoltarlo nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Adesso in sottofondo ci stiamo ascoltando questa band del Texas, esattamente di Austin. Loro sono i Dix, e questa è una band che si è formata proprio nell'83, appunto in Texas. Poi c'è stato per un periodo dall'86 ai primi, insomma, al primo decennio degli anni 2000 si era sciolta, ma poi si è riformata. Ora i brani che noi stiamo ascoltando sono presi dall'album Kill From The Heart, che è uscito nell'83, tra l'altro ristampato recentemente, anche perché il cantante di questa band storica è deceduto l'anno scorso, nel 2024. Va bene, Quindi salutiamo tutti, anche chi ci ascolterà domani in replica dalle ore 17 sulla web radio Radiazione. Ciao a tutti, al prossimo giovedì. They watch us steal, they watch us run. God, they can kill us.